Capitolo primo. Il credo islamico. Qualsiasi linea di condotta è l'espressione, nella sfera dei comportamenti, della coerenza a un credo che ha per oggetto una concezione del mondo, della vita, dell'uomo e del suo destino. Il credo islamico consiste in 6 articoli. Ce l'ha insegnato il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, in che cosa consiste il credo islamico. Egli ha detto: il credo islamico, al-Iman, consiste nel fatto che tu creda in Allah, nei suoi angeli, nei suoi libri, nei suoi apostoli, nella vita futura, e che tu creda che il bene e il male provengono da un decreto divino. Questo è l'insegnamento del profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, in materia di credo. E l'informazione veritiera su ciascuno dei 6 articoli si trova solo ed esclusivamente nel sublime Corano e nell'insegnamento del profeta nell'esercizio del suo magistero. Ne consegue che noi possiamo apprendere e conoscere la verità su Allah, il Dio, sia gloria a Lui l'Altissimo, gli angeli, su loro la pace, i libri, gli apostoli, su loro la pace, la vita futura e il decreto divino, solo dal sublime Corano e dall'insegnamento del profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, con esclusione di qualsiasi altra fonte.